decisioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sensazioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Questo è Jolly Roger. Yes people, nuova puntata di Jolly Roger. Buonasera, buon pomeriggio a tutti e tutte. Iniziamo questa seconda puntata del 2024. Puntata speciale, la crew non è al completo, ma manca il nostro amico Matteo, purtroppo bloccato a casa dall'influenza, ma con i potenti mezzi di Pirate Radio lo raggiungeremo telefonicamente più avanti. Iniziamo questa nuova puntata, un po' oggi, anche ieri via social abbiamo spammato un po' di cosette raccontando appunto che oggi sarà una puntata, abbiamo un ospite, un artista qui che partecipa alla puntata, quindi parleremo di arte, quindi una puntata artistica, quindi parleremo alla maniera nostra di quello che, di come vediamo l'arte. Quindi un saluto nuovamente a tutti e a tutte, soprattutto agli amici e alle amiche di Gemini Network che ci supportano e Radio Grad che ci ritrasmettono tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18. Anno nuovo, puntata nuova, iniziamo con un altro, con il primo pezzo di questa nuova puntata e poi ritorniamo in diretta. Tutti l'ormana, stong suli, ha già perso suo, ha già perso suo. Tu non chiami mai, tu non scrivi più, ha già perso suo, ha già perso suo. A volte un inferno la notte, solo chi batte se stesso è forte. L'avevi promesso, ora che ci penso tu no, ma le bugie hanno le gambe corte. Ti stava bene quel mascara nero e mi chiedevo, oh ma sarà vero? Anche se sotto c'era il trucco, lo si vedeva tutto. che ero fottuto davvero. Ho fatto un sogno che sembrava vero. C'eri tu, c'ero io, che un po' non c'ero. E stonavi le mie canzoni, schivavo discussioni. E tu non c'eri davvero. Tutti ormana, stong suli, agge verso suo, agge verso suo. Tu non chiama ma, tu non scrive più. Agge verso suo, agge verso suo. Tu che viene e cai a balla attorno a me. Tu che sei una luce cavo io vorrei. Tu che già sei buona come so. Tu che già mi tieni sì un po'. Tu che sei una voce che non vuoi parlare. Tu che sei una braccia che non cerca me. Tu sei come fine che stanotte. Che non viene pure si esce solo. Stanotte il buio mi acceca. L'abbiamo fatto e non eri te. La notte fonda nel petto, c'è una discoteca e non capisco come. Come fai a lasciare tutto vero e seppellirmi sotto un come stai, come stai. E io rispondo senza dire mai il vero e tu lo fai senza parlare davvero, davvero. La differenza fra una cura e una medicina, la stessa fra chi ti cattura e chi ti rapina. E un testa a testa mica ci avvicina, mica ci avvicina. Tutti l'ormana, stong suli. Agge verso suo, agge verso suo. Tu non chiama ma, tu non scrive più. Agge verso suo, agge verso suo. Tu che viene e cai a balla intorno a me. Tu che sei una luce che voglio avere. Tu che già sei buona come so. Tu che già mi tieni sì un po'. Tu che sei una voce che non vuoi parlare. Tu che sei una braccia che non cerca me. Tu sei come fine che stanotte. Che non viene pure si esce solo. Ed eccoci qua, questo è Jolly Roger. Tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Ritorniamo in diretta, puntata ricca. Iniziamo subito a parlare quelle che sono le nostre informazioni. Ora passo il mic alla nostra amica Alice. Diciamo buonasera. Buonasera a tutti, sono Alice e volevo raccontarvi di questa cosa qua che... Sì, allora, infatti, aspetta, ti interrompo un secondo perché noi stavamo parlando, mentre andava la musica, stavamo parlando di quello che è una cosa abbastanza importante che riguarda la mobilità, quindi il muoversi con i mezzi pubblici in giro per Roma. Sì. E parlavamo appunto, stavamo ricercando appunto, stavamo ampliando la nostra conoscenza su una notizia che ora Alice ci inizierà a raccontare. Ah, ok, sì. Mi volevo raccontare, diciamo, di questa cosa qui che praticamente questa metro c'ha un... cioè, allora, quale metro lì? La metro B. Ok, si parlava appunto dell'aggiunta di un treno per incrementare il servizio della metro, giusto? Sì. Perché praticamente non sono tante le persone e pochi i treni. Esatto, anche perché, scusate, ma... perché andate tutti in giro alle 7, alle 8 ecco, ma perché andate tutti in giro dalle 7 alle 8 di mattina, come mi dice Pietro? Ma non ce l'avete una famiglia? Ma non ce l'avete una famiglia? Ecco, appunto... Però a una certa ora si bisogna andare a letto. Hai capito? Che se no la mattina dopo è una caciara. No, la mattina dopo è una caciara. Detto, a parte gli scherzi, allora detto ciò, dopo tutto la metro deve chiudere. Infatti la metro, ricordiamo che a Roma chiude alle... 22-23, si dipende... Dalla, 22-23 e il sabato? È il sabato a mezzanotte. Perfetto. E quindi secondo te è una cosa utile sta cosa che aumentano i treni lì? È una cosa che fa bene a chi si deve muovere, oppure è una cosa che secondo te è inutile? Secondo me non è utilissima. Perché dovete andare tutti a piedi, perché questo è consumo, no, stiamo scherzando, stiamo un po' divagando. Però, nel senso, secondo Alice... È divagare. Sì, è divagare, è divertente, soprattutto. No, nel senso che, secondo Alice, non è utile, secondo me è abbastanza utile, perché comunque i mezzi pubblici qua a Roma sono pochi, effettivamente quelli che si muovono in superficie, quindi gli autobus, sono più rallentati, quindi... Aumentare le corse delle metro permette anche alla gente di poter scegliere se muoversi con la metro o con gli autobus. Però speriamo una cosa, lo speriamo tutti, ma lo speriamo tutti di una cosa che vi volevo dire, che vi stavo anche raccontando prima perché non stavo in onda. Adesso che questo è il momento che sei in onda, lo possiamo dire. Lo posso dire. Diciamo, ci dispiace un pochino a tutta la gente che prende la metro, tipo io con il gruppo del giovedì, con il tutto. Vi posso raccontare che comunque è importante che quando aggiustate dei nuovi treni oppure dei vecchi treni, magari prendeteli un po' meno vecchi, magari prendeteli un po' più nuovi, usateli un po' meno, cacciate i sordi, visto che comunque nel 2025 ci sarà il giubileo, quindi cioè spendete bene i soldi, giusto? Ecco, dovete spendere meno soldi. Esatto, più soldi ma meglio. Esatto, tanto esatto. Sono soldi miei e tuoi anche, non è che stiamo a parlare di altri soldi. Esatto, esattamente. Senti, mandiamo un pezzo e poi ritorniamo in diretta? Sì. Vai. Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma di un netto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no, se capire mi fa impazzire. Dei baby come on, scendi di vino dai gradini, ma non te la tiri con i tatuaggi dei latini, con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno presto, ti prometto. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Di fila, beh, sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sale da me. Si spogliami e facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille. Sabato sera suona il cabrionera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Poi me ne restano mille. Sabato sera suona il cabrionera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18 su pirateradio.it. Un saluto a tutti gli amici della chat di Telegram di Pirate Radio. Tema della puntata, si parla d'arte. Abbiamo oggi, ci è venuto a trovare Chiara Veronesi, ora ci racconterà un po' lei chi è stata qui al Branca il 27 di dicembre con noi, in quella che è stata l'iniziativa con i vari laboratori che si svolgono all'interno del Branca Leone. E quindi no, abbiamo deciso di, appunto, di fare una puntata un po' più sofisticata, dandoci anche un po' di tono, insomma. E quindi abbiamo qui Chiara, ora passo il mic sempre ad Alice, che comunque appunto se ne parlava dietro, mentre non eravamo in diretta, si parlava di quadri, non quadri. E intanto iniziamo con la prima domanda. Che cos'è l'arte? Allora, ciao a tutti, sono Chiara e diciamo che cos'è l'arte è una domanda parecchio difficile. E per me l'arte in realtà è la dimostrazione che anche le cose apparentemente inutili a livello pratico sono di vitale importanza, cioè nel senso, come dire, per me l'arte è una maniera di espressione diversa da quelle normali. E che quindi ci ricorda, cioè alla fine l'uomo non riesce a vivere senza arte, anche se alla fine per la sopravvivenza l'arte non serve a niente, quindi questo. Perfetto, quindi tu sei un artista nel senso che ti usi l'arte per esprimere determinate cose, quindi interessante. Poi vai Ali, vai tu, fai, io non so di che dovete parlare, io mi tiro fuori. Allora, parliamo del quadro. Come si chiama il quadro che hai scelto? Poi potete andare a vedere le tue opere dove, Chiara, scusa. Vabbè, non ho un posto fisso dove esporle, però c'ho la pagina Instagram, Chiara Veronesi Art. Ok, perfetto. Il quadro si chiama Galatide. A me mi è piaciuto perché assomiglia molto alla mamma di Gesù Bambino. Un po' un volto da Madonna. Anche se poi si diceva che a te chi ti somigliava di più. Eh? Tu hai ritirato fuori il Signore degli Anelli, mi sbaglio? Sì. E riferito a cosa? A lei. A lei chi, Chiara o al quadro? Al quadro. Perfetto, allora facciamo parlare un po' Chiara di questo quadro, va? Beh, diciamo c'è poco da dire perché oltre a dipingere, diciamo, sono abbastanza nerd, quindi diciamo una mia passione è il Signore degli Anelli da quando ero bambina e il personaggio di Galadriel mi ha sempre, come dire, appassionato tanto perché nonostante è una donna era considerata una donna molto forte. E quindi questo, cioè, diciamo, quello mi ha ispirato a disegnarla. Perfetto, Chiara. Allora, noi mandiamo un altro pezzo e poi proseguiamo l'intervista con Chiara. Pictures on the wall that tell me who we were. Cracks in the skies was hurt we had to learn. Now we're fading, changing from ourselves. Sinking, bleeding, crying out for help. I'm scattered, so tattered. There's no one else in this life for me. So lonely. So open up the doors. She goes. this life for me now. I'm battered, so shattered. Forever, never felt so lonely. To open up the doors, the shape of our hearts the same. It's fading away to break doors somehow, someway. We built something beautiful we can't replace. We're chasing every breaking wave. Cause I loved it after love, yeah, so don't let go. Enough, enough, enough. I need your clothes. I need some soul. Oh, I need some soul. Oh, baby, let's take the chance. The shape of our hearts the same. Let's find a way back to us somehow, some way. Confusionarie, però diciamo ci sta sempre questi tre colori che danno in qualche modo una luce. Sembra quasi un quadro di Kandinsky, cioè... Sì, vabbè. No, è di meno, dice Chiara. Beh. Cosa provi quando crei opere? Allora, diciamo, io sono una molto ansiosa e molto introversa. E, diciamo che è il mio modo in qualche modo di esprimermi, diciamo, mi dà la tranquillità di non dover parlare, cosa che mi spaventa, e in qualche modo buttare fuori quello che viene. A volte viene una schifezza, a volte viene una bella cosa, ma in qualche modo uno dei pensieri che hai resta su carta e non ce l'hai fisso in testa, quindi diciamo mi sento rasserenata quando creo qualcosa. Qual è il tuo artista preferito e perché? Okay. Allora, il mio artista preferito, anche se, se può sembrare banale, perché diciamo purtroppo ultimamente va molto di moda, è Van Gogh. E perché io lo ritengo un artista a tutto tondo, non soltanto dal punto di vista pittorico, ma anche perché le cose che scriveva, soprattutto magari lettere al fratello, eccetera, hanno una visione completamente diversa del mondo, e nonostante le persone lo considerino anche un po' depresso così, in realtà lui era fondamentalmente sempre alla ricerca di una felicità, e solitamente sempre incompreso, e nonostante diciamo le brutte esperienze che passava, i suoi quadri sembrano sempre molto luminosi, quindi diciamo per questo mi ha ispirato tanto. Una domanda te la voglio fare io. Ma secondo te l'arte può essere funzionale per una forma di terapia e come? Ah, io sono convinta al 100% che l'arte possa essere funzionale per una terapia, sia perché diciamo io in prima persona la uso come terapia, perché comunque per via dell'ansia, e perché dà un modo di esprimersi anche per esempio. Sfogo e di espressione che non ha bisogno di parole. Perfetto, Chiara, sei stata molto molto chiara, a parte il gioco di parole. Hai portato insomma qui al Branca il 27, hai esposto, quindi potete ricercarti, potranno ricercare i vari social. E andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Dandy, non mi comprendi, senti tu non ti offendi se ti dico che sei trendy, prendi me per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento, essendo amico di Baldan Bembo sono un silenzio che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo, con l'audio l'autoradio nell'auto cauto resto, faccia a faccia con una focaccia altro che l'autopasto, capomastro con validi manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco, e mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mi schiano il bracchetto e non capisco come che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Oh, oh, oh. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio. E da giovani spumarsi e laccarsi davanti allo specchio. Sono vecchio, punto, e prendo spunto, dato unto, ciuffo. Mi sento stretto come quando incappetto un puffo. Oh, io odio caparezza. Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo, che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, chi mi fa? Da pub, da disco e da divano, sono qua come una lodo la questo è il mio ramo. Io, immune al pattume della TV di costume, in volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume. Non c'è paragone, basta una birra e fermentazione e la tipa in fibrillazione per la nuova posizione. Matizia la tizia piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame, non problema se mi sfizia la pizza a cena. Serate a tema, ben accette salame a fette spesse. VHS, se non bastasse sulle casse. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Sempre Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. In attesa di sentire il nostro amico Matteo, passo il mic al nostro amico Lughino. Offerte Carrefour. Pringles Smoky Bacon a 2,59 euro. Coca-Cola Zero Zuccheri da un litro a 1,75 euro. Candeggina Ace a soli 99 centesimi. Carrefour, tutto per il meglio. Sapete come si chiama il prete che dondola dondolando? Cosa ci fa un canguro nero su un foglio bianco? Risalta. Cosa usano i muratori? Il calcio e struzzo. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino l'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università. E poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 perché i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso, quello che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e pantuffo nel mare. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger con i potenti mezzi di Pirate Radio. Ci mettiamo in contatto telefonico con il nostro amico Matteo. Ciccio? Ciao, sì, ciao a tutti. Buonasera, come stai? Ma meglio. Ok, senti, visto che la connessione è quella che è, ci dai questi tre risultati da scommettere, visto che questo weekend ci saranno solo 5 partite, diccene 3. Allora, io 3, Udine Milan, Vite l'Udinese. Poi? Oh? Poi? Poi, Udine Cadi, Vite Prodidone. Ok, poi? E Napoli, Moda, Vite Napoli. Perfetto, poi tu su chi scommetti per questa Supercoppa Italia? Italiana, eh? Chi vince secondo te? Lazio, no, De Pietro, Lazio! Vabbè, abbiamo capito che vince la Lazio, abbiamo capito, quindi l'hanno capito anche i telespettatori. Senti, vuoi salutare qualcuno in particolare? Vai, salutali. Marco, Davide e Matteo. Perfetto. Senti, andiamo con un altro pezzo musicale, poi noi ci vediamo la settimana prossima, giusto? Sì. Perfetto. Allora, Ciccio, buon weekend, riacchiappate e ci risentiamo. Ciao, da Piero. Ciao Ciccio. Ciao Matte. Non le compro le cose a rate, non mi illudo neanche d'estate. E le ho sempre odiate le feste, specie comandate, tipo le rimpatriate, gli ex compagni di liceo, queste tavolate sconosciute in cui non trovo le parole, scarabeo, sì, soprattutto da quando non bevo. Io sono allergico ai cliché, se questa sera sono qui è per te. Sono 20 anni che non ci vediamo, eppure noi non siamo andati molto lontano. Angelo alla fine lavora all'ONU, Sara è già il terzo matrimonio, ma mi guarda come se non avessi un uomo, mi sa che neanche il terzo è quello buono. Ma no! Tempo è una ferita che più guarisce più fa male. Non sei cambiato molto, sei uguale a quella foto in cui sistemavi il cerchietto allo specchietto della mia moto. Io ricordo quando passeggiavi in tuta rosa, in corridoio. Io non ho mai vinto un cazzo, ma vederti era consolatorio. Quindi no, non dirmelo se sei sposata, piuttosto bucami con sta posata. Sono serio, prendimi sul serio, come il cielo visto dall'aereo. Perché alle magistrali eravate tante, ma io ricordo in bianco e nero le altre. Allora non nasconderti luna nuova, quando passi tu le ragazzine vanno fuori mano. Ma no! Ma no! Lasci tempo è una ferita che più guarisce più fa male. Ti spiego, dopo la maturità io ho preso le mie cose, sono corso in preda alla libertà del post maturità, le speranze, i sogni. Ma io cosa sognavo? Io sognavo di tornare a scuola da te al bar, celebrarci, vomitare nella metro, ma tu eri già svanita. Io poi mi son detto la chiamo domani, ma domani era estate, ti disturbo l'estate, no ma pure io avevo un po' perso il senso. La chiamo a settembre, e come avrai notato oggi è settembre, B, settembre di 20 anni dopo, che faccio? Corro troppo? Prendi il tuo zaino e andiamo via, non ci sono i miei a casa mia. Ma noi ci tenevamo sempre tutto per noi, per noi. Cos'è che mi vorrei dire? Non cercare giustificazioni, firmeremo noi al posto dei genitori. Il tempo è una ferita, chi più guarisce più fa male. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Abbiamo appena sentito il nostro amico Matteo in diretta telefonica, ha fatto il suo pronostico sulla Supercoppa Italia, che secondo me è scandaloso giocare in Arabia Saudita, ma sono delle piccole considerazioni, va bene così. E proseguiamo la nostra puntata. Il nostro amico Luca nel frattempo si è preparato per il momento delle sue amate battute. Due mandarini litigano furiosamente e uno dice all'altro: guarda che ti spicchio. Come si chiama il miglior portiere greco? Paraliriguri. Al telefono: hello, no è qui, è lì. La tuta di Batman, la battuta. Cosa fa un indiano vestito alla moda e con un look all'ultimo grido? Il fico d'India. È un must, ormai le rubriche delle battute del nostro amico Luca sono il must di Jolly Roger. Andiamo con un altro pezzo musicale e poi torniamo sempre qui in diretta per gli ultimi minuti e ovviamente i saluti finali. Dammi il microfono. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate fammi fare il fenomeno. Azione, sputo sulla telecamera. Signore, aiuto, musica senza anima. In questo mondo di ladri e di figli d'arte, i rapper di oggi ti fanno le scarpe. Esco dallo studio con il master chef, doppio salto mortale in un mare di offese. Guarda come ti muovi, Harlem Shake. Lo sa anche Alessandro, l'Italia è borghese. Voglio vedervi ballare, sì chef. Voglio vedervi sudare, sì chef. E non chiamatemi chef, sì chef. Animali in casa mia, un covo di bisce. Per colazione caffè espresso e Marlboro, la sera prego da bravo cristiano, Malgioglio. Pago carta oro, mangio carte d'oro, dopo cena mi fumo una canna, vacciuolo. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate fammi fare il fenomeno. Al microfono sono affamato come un bulldog. Al collo più serpenti di Marcello Burlon. La moda va e viene al momento giusto. Sta roba manda fuori manco fosse Woodstock. Sentivo parlare queste modelle. Dicevano che il fisico non serve, che l'uomo giusto è quello che non spende. Mi stavo sballando sotto le stelle. Vivere soli a volte è un pericolo. Mangiavo fino a tardi in cucina da incubo. E se mi guardi così facciamo un figlio sul beat, perché il rap è come il sesso, esplicito. Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale. Gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate, fammi fare il fenomeno. Frate, fammi fare il fenomeno. Figata. Ritorniamo in diretta. Oh, spacca sta roba qua, Roger, eh? Luchino, con Luchino si parlava fuori onda che a Chiara sta bene il Pua, quindi lo rendiamo partecipa anche in tutti i radioascoltatori, e ci parlava di buongiorno, buonasera e tante belle cose. Abbiamo chiamato anche il nostro amico Matteo. È vero, ciao a tutti, vi auguro un buon weekend. Ah, vi ricordo che lunedì è il mio compleanno e faccio ben 17 anni. Quindi mi raccomando, anzi ti raccomando, venerdì prossimo devi portare da mangiare e da bere, cioè, quindi regola di tu, insomma, un po' di dolce e un po' di salato. Ok, grazie a tutti per essere stati qui con noi e a venerdì prossimo per festeggiare il mio compleanno e ciao. Grande Luchino, ora faccio la nostra amica Alice saluta. Vai. Ciao a tutti e buon weekend. E buon weekend. Buon weekend a tutti e tutte, ci risentiamo settimana prossima e ultimo pezzo per noi. Tracciare un'orbita. cosa.